Il punto di Stefano Folli. E così siamo all'epilogo giudiziario ampiamente previsto della lunga storia politica di Silvio Berlusconi. Nessuna vera sorpresa e alcune conseguenze. Non ci sarà una candidatura dell'anziano leader né alle europee né eventualmente alle elezioni nazionali. E fra pochi giorni, quando comincerà a scontare la pena principale, probabilmente ai servizi sociali, sarà ancora più evidente che un capitolo è chiuso. Certo, Forza Italia rappresenta tuttora parecchio sul piano elettorale ed è un patrimonio da gestire in tutti i sensi. Ma con il capo fuori gioco stanno emergendo faide sempre più distruttive che lo stesso Berlusconi non sa o non riesce ad appianare come in passato. È l'effetto di un declino anche personale che non è indolore e che richiederebbe l'avvento di un nuovo gruppo dirigente, per meglio dire di una nuova leadership, ma è la cosa più difficile dopo che per 20 anni il centrodestra si è sempre e solo identificato nella figura del suo fondatore. Ecco perché il rapporto con Renzi, quella strana relazione parlamentare che nonostante tutto finora regge, rappresenta oggi per l'ultimo Berlusconi un'ancora di salvezza a cui tenersi aggrappato.